Benvenuti a Tracce di Cinema, sono le 15.01, oggi è giovedì 6 ottobre, siete in diretta dai dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Oggi è una giornata bellissima e voglio iniziare raccontandovi questa cosa per poi introdurre la nostra ospite. E già vi ho detto qualcosa per capire chi è. Quando preparo una trasmissione, una puntata, lo faccio sempre con grande cura, con grande serietà, ho paura di sbagliare, allora preparo tutto, faccio ricerche meticolosissime, ordino, controllo le parole, so quando devo e posso fare delle pause, calcolo anche il respiro che devo prendere quando preparo la trasmissione di Tracce di Cinema con Federico. Oggi anche ho fatto la stessa cosa, ho studiato, ho cercato, ho letto, ho preso appunti, ho riflettuto, ma non mi sento per niente tranquilla. Non che normalmente io mi senta tranquilla, ma oggi normalmente non mi sento sicura neanche quando assaggio gli spaghetti per vedere se sono cotti, ma insomma oggi sono più insicura del solito, ma anche molto felice di questa mia poca sicurezza, perché so che c'è con noi so che c'è con noi qualcuno, so di cose importanti che ti riguardano, so che c'è con noi qualcuno che tradurrà straordinariamente, in un modo straordinario e espressivo e concreto, ciò che in me resta confuso. L'ospite che oggi con noi, infatti, sa farlo benissimo, è un interprete dei sentimenti, di quei sentimenti che la maggior parte di noi sentono e provano nel profondo, ma che non riescono a esprimere con le parole. Lei è la glottologa, invece, lo sa fare. Lei ti dice in 4 e 48 quello che tu cerchi di dire da anni. La introduco così, con una frase tratta da un suo recente spettacolo che non c'entra niente con il film che andremo a presentare oggi, ma che a me è piaciuto tantissimo. Oggi mi sento un insetto, perché è proprio così che io mi sento davanti a questa piccola grande autrice, regista e attrice che è con noi, Eleonora Danco. Wow! La presentazione. Benvenuta. Ottavia, grazie mille. Mentre grazie. Tu parlavi, lei lottava con il microfono che si abbassa. Sì. L'ho visto, infatti ero distratta, ho fatto anche fatica a fare tutta questa cosa che avevo scritto sempre con la solita cura, amore, attenzione, tutte quelle rotture di coglioni che di solito fanno parte di me, quelle pesantumi. Grazie Eleonora di essere con noi. Grazie, non è colpa tua del resto del microfono, ma Federico Raponi. Il film di oggi che andiamo a presentare, con le musiche bellissime di Marcus Hacker, veramente molto belle, io non lo conoscevo, l'ho scoperto con Eleonora, grazie Eleonora, e me ne sono veramente innamorata. Sicuramente qualcuno all'interno di questa radio lo conosce bene, mi viene in mente Elettrodo per esempio, che magari se all'ascolto può anche intervenire per darci qualche dritta. Marcus Hacker è un grande compositore di varie colonne sonore, ma insomma una persona eclettica, fa parte di diversi gruppi musicali, ha sperimentato musica dall'hard rock fino alla musica elettronica più contemporanea e più techno, ma poi ne parleremo magari più avanti, e ha appunto curato la colonna sonora del tuo film, Eleonora. Come è nato questo incontro? Come vi siete conosciuti? Ma innanzitutto devo ringraziare Marco Tecce, che poi ha anche insomma montato il film nella parte poetica, devo dire che gli devo grazie a lui per questo moltissimo. Tra l'altro ha montato anche le musiche all'interno del film, e montaggio complesso era, comunque c'erano dei collaboratori, ma e io ascoltavo con lui in macchina, visto che Marco cura anche tutte le colonne sonore dei miei spettacoli. Sentivo con lui i No Twist, perché è il gruppo diciamo più importante che Marcus rappresenta, poi ci sono i Lalipuna, insomma, come hai detto tu, e poi lo diremo più avanti. E niente, sono rimasta colpitissima dalla loro musica, dato che per me la musica è una cosa fondamentale nel mio lavoro, direi anche nella mia vita, perché la musica fa parte di quella sfera selvaggia dell'essere umano. E io sono cresciuta a Terracina da piccola, nell'adolescenza la mia casa era sul mare, quindi il mio rapporto con la natura è sempre stato fortissimo, e io leggo il fatto di avere necessità proprio della musica, quello che mi ispira, a questo rapporto con la parte selvaggia, quindi con la parte alta. E in teatro è fondamentale per me, sia quando scrivo che quando vado in scena. Come sai, tu vieni sempre a vedere i miei spettacoli, anche Federico, c'è moltissimo, sempre la musica. Con una certa predilezione per l'elettronica. Sì, tra l'altro negli ultimi anni sì, ci siamo adattati, cioè ci siamo adattati, come si dice, ci siamo messi in regola, anche perché no, bisogna, non mi piace, a me non piace, ma soprattutto anche con Marco, personalmente a me legarmi al passato troppo, no? Quelle musiche che metti, ah, ti ricordi, cioè i ricordi per me andrebbero proprio distrutti, perché sono qualcosa che ti ferma, no? Quando inizi a dire, ah sì, perché ai tempi nostri era così, è la fine della testa, secondo me. Come una battuta del film che abbiamo presentato la scorsa settimana, Strange Days, i ricordi sono fatti per essere dimenticati. Sì, poi ricordi è diverso dalla memoria, cioè sono quasi due cose diverse, no? La memoria può diventare facilmente, no, il giorno della memoria, i cosi della memoria, che è importante, ma vabbè, comunque, per tornare ai No Twist, niente, li sentivo e un giorno in macchina con Marco ho detto, certo, sono veramente, cioè ci vorrebbero loro nel film, cavolo. E devo dire che ci stanno proprio bene. Che dici, ce li sentiamo? Ci sentiamo qualche pezzo? Vai, grande. Dai. Il collo e la collana, parte 1, Rayon. Eh sì, e questa era una delle tracce che hanno arricchito questo bellissimo film di Eleonora Danco, Ancapace, che è uscito qualche tempo fa, Eleonora? Sì, devo dire che questo Primavera film... 2015. Però io lo chiamo il film che visse due volte, perché questo film sta avendo una continua richiesta. È una cosa che mi fa grande onore, devo dire, grande gioia, anche perché ha avuto una distribuzione particolare, diciamo indipendente, quindi non ha raggiunto il grande pubblico. Però piano piano ci stiamo rifacendo, ce lo richiedono in tutta Italia. Senti, io per fortuna non sono riuscita a visionare e aprire tutti i link che mi hai mandato, qualcuno per fortuna non si è aperto, perché sennò ci avrei messo tipo un mese per preparare la puntata di oggi con te. Però mi ha impressionato tantissimo la quantità di recensioni che hai ricevuto. E poi tutte entusiaste, oppure tu hai fatto probabilmente una selezione per... No, non ho fatto una selezione. È stata molto oggettiva. Sto scherzando, tutte entusiaste, bellissime, anche recensioni che vengono da giornali non italiani, insomma, internazionali. Beh, insomma, come per un primo film non è proprio una cosa così scontata. Grande successo di critica, anche di pubblico, perché comunque io sono venuta a due proiezioni e il cinema era pieno. I critici entusiasti, cosa è successo alla distribuzione? È successo che l'abbiamo trovata strada facendo dopo i due premi vinti a Torino. Abbiamo provato con la produzione, con Barbagallo, a farlo noi, diciamo. E quindi non è facile poi trovare una distribuzione, da quello che ho capito, perché il cinema non lo conoscevo bene come mondo. E la distribuzione è fondamentale, e quindi però non è semplice, perché non c'erano attori di rilievo, non c'erano grandi nomi, quindi è stata fatta un altro tipo di operazione. Comunque il film continua ad essere visto, e questo è importante. Io sono molto contenta della, avuto anche stato designato film dal Sindacato Critici 2015, e vabbè, sono cose che ti fanno molto piacere. Poi mi hanno anche terrorizzata, perché a un certo punto ho anche pensato, ora sto scrivendo il secondo, ho detto oddio, ma poi uno invece deve dimenticare, deve distruggere tutto quello che ha costruito ogni volta, e bisogna distruggere i complimenti, cioè assaporarli in quel momento e poi basta, via, fine. Tra l'altro il film ha avuto un grande successo, è stato premiato al Torino Film Festival da Ferzan Özpet, che gli facciamo gli auguri perché si è sposato. Ah, infatti, è vero, sì, auguri da poco, Ferzan. Auguri maestro, è stato proprio fortemente, insomma, voluto e amato da Ferzan Özpet. Vi siete conosciuti, avete condiviso, insomma, hai potuto assaporare i complimenti di un grande regista, perché secondo me Özpet è uno dei nostri registi contemporanei più significativi del cinema. Ecco, vi siete incontrati, ne avete parlato del film, che ti ha detto? Per me è stato veramente un privilegio conoscere Ferzan, perché ho avuto modo poi di... Mi ricordo quando mi ha premiato a Torino, avevo un certo imbarazzo, a parte che mi vergognavo da morire, cioè tutta quella platea di Torino, andare a prendere i premi, non sapevo che cacchio dire, vi devo dire la verità, non riuscivo a dire bene il cognome di Ferzan Özpetek, poi l'ho imparato e stavo continuamente vicino all'ufficio stampa e ogni due minuti gli ridicevo Özpetek, lei sì, giusto, perché avevo il terrore di andare sul palco e sbagliare. Poi era facile, però l'emozione si era tutta riversata sul cognome di Ferzan, e invece poi non l'ho dovuto neanche dire, perché mi ricordo che alla fine della premiazione lui è venuto nell'ombra, mi ha toccato la testa e mi ha detto devo andare via, mi è piaciuto moltissimo il tuo film, fanne subito un altro, ed è una cosa che mi ha continuato a dire. Poi sono andata a trovarlo a casa sua e abbiamo parlato, ogni tanto ci scriviamo, e lo stimo moltissimo, ha un grande cuore Ferzan, è una specie di persona che pulsa quando ci parli, un po' come te, quindi per questo si è creata forse anche questa empatia. Senti, però io voglio dire, cioè, io vorrei, Federico, vorrei fare una puntata, vorrei far parlare tutto il tempo Eleonora. Poi ho preso anche un libro che avevo comprato con tutte dei testi scritti da Eleonora, che sono bellissimi. Io tutte le volte quando mi ricapita, li ho riletti centinaia di volte, ma tutte le volte mi emoziono, mi trovo delle cose, sto di me, mi commuovo, ero purissima. Se avete la possibilità di trovarlo, perché non so, non credo che sia facilissimo, edito da Minimum Fax. No, si trova anche in rete, si può comprare? È una collezione degli scritti di Eleonora, sono straordinari. Io ho segnato, avevo già segnato nel tempo, quando l'ho letto la prima volta avevo preso degli appunti, però rileggendolo ieri ho risegnato altre cose, perché vorrei che Eleonora ce le leggesse. Ma insomma, vorrei fare una puntata ricchissima con Eleonora, perché mi piace tanto, la stimo tantissimo, lei lo sa. E allora ti dico questa chicca, visto il tuo entusiasmo, sì, su Ero Purissima, in rete su YouTube trovi la lettura che ne ha fatto Fabrizio Gifuni di un pezzo che è sensazionale, secondo me. Perché poi pure Gifuni è un grande, però non so, sì, se sarà riuscito a eguagliare la nostra ospite. Però comunque, insomma, la nostra ospite è un personaggio stupendo, una persona stupenda, non un personaggio. Vorrei farla parlare tanto, però vorrei fare anche farvi ascoltare anche la musica che ha scelto e che abbiamo, insomma, un po' scelto insieme, perché me l'ha proposta Eleonora, perché altrettanto bella. Marcus Hacker, ancora dalla colonna sonora di Ancapace, ascoltatela e spero che vi piacerà. Sempre Ryan, il collo e la collana, una delle tante parti in cui è suddivisa questo testo. Questa è la parte 9. Eleonora, uno degli elementi estetici più rilevanti, secondo me, del tuo film è anche la tua composizione dell'immagine, con tanti riferimenti pittorici e fotografici. Tu hai dei nomi precisi, ne abbiamo parlato anche quando ci siamo sentiti per l'uscita del film. Hai dei riferimenti precisi che sono però anche un senso estetico tuo, però ci sono dei maestri che ti hanno influenzato. Ma io per questo film mi sono ispirata per le immagini a De Chirico, perché, come lo sai tu, quando vengo qui te lo dico sempre, io mi ispiro molto alla pittura, perché la pittura appunto non ha psicologia, arriva in modo diretto e a me questo mi stimola moltissimo. Quindi questa le immagini di De Chirico del periodo, non mi ricordo la parola, cavolo, vabbè. Grazie, del periodo metafisico, sono state fondamentali. Gamma, sto ragazzo, sì. Lo salutiamo, abbiamo anche un altro ospite, Diego, qua, Diego, una futura persona famosa, sì. Grazie del suggerimento. Grazie, e quindi era De Chirico. E poi tutti gli anni di teatro che ho fatto, curando la messa in scena dei miei spettacoli, facendo le luci, lavorando sulla prospettiva, che per me la luce è comunque suono, è immagine, e quindi ed è anche l'inconscio di quello che avviene in scena. Cioè, non uso mai la luce in modo descrittivo, ma in modo intimo. È anche spiazzante per il pubblico, perché per me nel teatro quello che conta è anche far arrivare una decifrazione della realtà, che non sia solo, per esempio, non mi piace mai illuminare tutta la figura, no? ogni volta mi dicono stai al buio, è vero, però ecco, mi piace usare dei dettagli, le mani, i pezzi di corpo, perché noi siamo tutti il giorno nel corpo, tutti noi, continuamente. Andare a teatro, rivedere quello che tu vedi nella vita può essere molto complicato per uno spettatore, invece lo spettatore si deve levare, e quindi mi piace usare in questo senso. Poi mi sono ispirata anche tantissimo a Buñuel, ma più nella sintesi della sua provocazione, perché era un provocatore e secondo me l'arte deve provocare. Non mi sono neanche minimamente avvicinata a Buñuel, che per me è un maestro totale, è il super Buñuel, sono le nuvole che sono sulla nostra testa, io penso sempre a Buñuel, e questo è stato. Questo è stato fondamentale nella scelta delle immagini che mi stavano proprio a cuore, per quello ha un impatto forte. Questo è per quanto riguarda la scelta delle immagini. Invece io volevo parlare del linguaggio, yes. No? Che è una cosa che mi ha colpito sia nel film sia tutte le volte che vengo a vedere i tuoi spettacoli, no? Intanto stavo riflettendo sul fatto che comunque il linguaggio teatrale è completamente diverso dal linguaggio che deve essere usato per il cinema, mentre invece tu sei riuscita a creare una sinergia tra le due cose, cioè a trasportare un linguaggio teatrale nel cinema. E secondo me, poi adesso tu mi dici se ho detto una cavolata. E poi mi ha fatto impressione nel film, perché tu dici mi sono ispirata a De Chirico e a Buñuel per le immagini eccetera, così, però il linguaggio è molto pasoliniano, con questi ragazzi che vengono dalle periferie, in fondo anche non volendo fare un film politico, perché sicuramente il tuo film non è un film politico, non è una critica alla società, non vuole certamente dare dei messaggi di nessun tipo, se non quello, insomma, no, della posizione di queste due generazioni, no? I giovanissimi e i vecchi, di cui poi magari ci spieghi anche qualcosa in più di quello che posso dire io. Beh, è un linguaggio così difficile, ecco, difficile ma molto semplice, vicino alle persone che lo ascoltano, perché arriva lontano dal teatro ma nello stesso momento trasposto nel cinema, e vicino secondo me a Pasolini, perché comunque quella realtà che tu fotografi e che descrivi e che racconti attraverso quelle bellissime interviste, quelle performance, è molto pasoliniana, Eleonora. Ma vabbè, io è un onore, perché Pasolini è un grandissimo, nel cinema soprattutto mi piaceva moltissimo, ma quello che mi ha ispirato di Pasolini in assoluto, quello che mi ispira di lui, è anche innanzitutto il fatto di sporcarsi le mani con quello che si fa, e lui in questo è stato un maestro, anche se i maestri, vabbè, però è stato coerente sempre sul fatto proprio di sbilanciarsi anche come uomo, come persona, no? E poi pasoliniano secondo me nella libertà della scelta, forse delle immagini, non lo so, io magari Uccellacci Uccellini me lo sono visto 57.000 volte, e forse mi ha ispirato proprio quella libertà e quell'essere spregiudicato da parte sua, cioè di porsi come quasi un dilettante, capitemi bene, cioè di porsi non come uno che dice sto facendo un film, ma come dire è il mio punto di vista, e quindi essere coerente in questo senso. Allora sì, questo è stato un grandissimo maestro per me. Poi c'è anche un abuso di questo linguaggio pasoliniano, no? Che magari ce lo sta facendo diventare anche però è anche giusto, in qualche modo comunque è una presenza che continua a vivere, però ecco, nella sua, a me piace tutto il Pasolini che era più poetico, più libero e più stravagante, insomma, anche perché per esempio quello con Totò e Ninetto Davoli, Cosa sono le nuvole, comunque è uno sperimentatore Pasolini, e quindi e poi l'approccio con le periferie è stato un approccio sicuramente non per insegnare o per dire ah vedete come stiamo, cioè io mi sento anche io una persona che vive nella sua anima in periferia, cioè agli estremi di qualcosa, e quindi l'ho vissuto così, cioè io ero come loro, mi sento come loro, senza volerlo è diventato un film politico, perché ti pone davanti una realtà, allora tutto ciò che ti pone davanti una realtà senza essere referenziale con quello che è la mente delle persone, no? Il giudizio diventa politico, perché ti può sbandare. Allora cercavo sempre questa verità, questo impatto vero, fresco con le cose, perché poi è quello che colpisce di più le persone e le può mettere anche, se vuoi, in difficoltà, o le può far riflettere dopo. Se ti fanno riflettere mentre lo vedi è già più noioso. io penso che penso spesso, no, quando scrivo per il teatro, quando dico, ma poi quando uno esce da là, no, che gli cambia? Tu puoi anche fare uno spettacolo dove dici poveri, no, fare sempre queste cose che ti senti a posto con la coscienza, tu autore, ma poi che hai risolto? Ti sei solo aggrappato a un problema. È molto più interessante per me riuscire a entrare dentro la complessità delle persone, perché è riuscire sempre ad avere il rapporto con lo spettatore, è fondamentale, che non è piegarsi a un linguaggio, è riuscire a entrare nella pancia di qualcuno, perché è come la musica, poi, cioè ti rimane dentro. Per chi non avesse visto il film e non avesse visto gli spettacoli di Leonora Nanco, è proprio quello che succede quando sei così fortunato di essere tra i presenti che possono apprezzare le sue parole, la sua arte, e veramente riesci a arrivare alla pancia. Io, e poi con una semplicità estrema, a me questo è quello che colpisce di più personalmente e che mi emoziona tanto tutte le volte che ti vedo, e che mi ha emozionato quando ho visto Incapace, è che con una, come i grandi, i veri grandi, riesci a dire delle cose profondissime, complicatissime, difficilissime, con una semplicità, con un linguaggio talmente semplice, talmente scevro da ogni elucubrazione, da ogni intellettualismo, che proprio tu dici, ma che cosa meravigliosa, che bello, è riuscita a dire quello che io non sono riuscita a dire mai, almeno è quello che succede a me quando ti ascolto. Vabbè, dai, io ti ringrazio molto e quasi troppo, sappi, è vero, deludere. Pure secondo me è un po' troppo. No, non ti voglio deludere, ma sappi che io sono una persona profondamente ottusa. Poi adesso comunque c'è una responsabilità, perché la prossima cosa, certo, se mi deludi succede una tragedia, sto scrivendo il testo, cioè, per il teatro, vado in periodo, depressione, e tutti mi dicono tu riesci a entrare nelle viscere, a me prende la sincope, perché vedi, comunque per entrare nelle viscere devi entrare nelle tue, cioè io parto sempre da evidentemente questo. Lo riesci a fare, Leonora, perché io spero, se che mi non sono l'unica, viscere, vedi, perché dai, da paura. Bene, dai, continuiamo con la musica, abbiamo il quarto, la quarta traccia del film. Thank you. Ancora Rayon, il collo e la collana, la parte 8 di questa traccia suddivisa in parti. Metafisica. Metafisica. Metafisica, come direbbe il nostro futuro attore famoso Diego, che è qua con noi. Ciao Diego, come va? Va bene, grazie, una splendida giornata anche se piove. Va bene, siamo felici che sei con noi. E bene, allora di Marcus Hacker volevo mi iniziare a parlare, Eleonora, perché non si può sempre parlare di te. Io sto qua per parlare di Marcus. Dobbiamo parlare anche di Marcus, anche perché... che tra l'altro non ci ascolta probabilmente, ma gli manderò il link. E poi quando magari capita a Roma ci fai una piccola presentazione, che magari capita qua. Guarda, alla radio. L'ho invitato a marzo a vedere lo spettacolo al Teatro India, che debutterò con Deversivo dal 9 al 19 marzo al Teatro India 2017, chiaramente. L'ho invitato e ho una grande responsabilità perché non mi ha mai vista a teatro, è curioso, quindi devo stare all'altezza di... Sarà tutto. E lo porteremo qui, insomma. Bene, bene, noi lo aspettiamo. Intanto per i nostri ascoltatori che magari non lo conoscono, Marcus Hacker ha fondato diversi gruppi musicali, ha un'etichetta con cui produce, i No Twist, diciamo, sono il suo gruppo principale insieme a quello dei Lali Puna, formato da lui, suo fratello e altri componenti. Hanno spaziato sia nei No Twist che nella Lali Puna, che nell'altro gruppo che non mi ricordo come si chiama, ma mo ve lo dico, Tide and Tycled Trio, hanno spaziato attraverso, hanno sperimentato attraverso tantissimi generi musicali, sono partiti dal punk rock fino a approdare a musica, a pezzi che sono contrassegnati da un suono elettronico minimal, comunque sono sempre stati molto influenti nella scena krautrock tedesca. Comunque, insomma, l'impressione che ho avuto io ascoltandoli è di grande contemporaneità, di grande presenza sonora contemporanea, ma anche una grande, insomma, ricerca nel passato, forse. Insomma, si capisce che è un musicista che la musica la conosce bene, e mi piace pensare, e grazie Diego che ci hai suggerito questo aggettivo che a Eleonora non veniva neanche a noi, metafisico, perché proprio queste musiche che lui ha fatto per il film sono veramente molto metafisiche, cioè si sposano perfettamente alle immagini, no, che tu hai scelto come regista per girare, per svolgere, in cui si svolgono le azioni e le scene dei tuoi protagonisti, di te con, non so, sul letto vicino al binario del treno, oppure quando ti aggiri per la città col piccone, no? E sono proprio perfette. Ma che lui l'aveva già visto il film prima? No, guarda, il modo di lavorare è andato così, è stato molto particolare. Non so se hai scaricato la lettera che ti avevo mandato. Sì, l'ho scaricata, ma mi sono dimenticata di portarla. Adesso la prendo, ce l'ho anch'io, la leggiamo. Dai, perché sì. Lui si è ispirato molto, anche lui lavora molto sulle musiche anche anni 70, 60, soprattutto del cinema italiano. Infatti l'ultima volta che è venuto a Roma, lui in ogni città dove va ha un negozio di dischi del cuore, dove va a comprare i dischi. E l'ultima volta, che è stato recentemente, 20 giorni fa, ha comprato per esempio la colonna sonora dell'Isola di Antonioni, no? Dell'avventura. E lui lavora molto su questo. Poi leggeremo questa breve lettera dove lui anche dice come ha lavorato con il film. Noi non riuscivamo appunto a sintetizzare, ecco, diciamo, con lui il rapporto, no? Non si chiudeva mai, quindi io contrattualmente discutevamo con la produzione, quindi io non lo chiamavo prima di chiudere il contratto, e nel frattempo il montaggio finiva, perché abbiamo fatto appunto vari cambiamenti del montaggio insieme ai collaboratori che ci sono stati bravi, e poi insieme anche nella fase finale del montaggio, che è stato appunto ricambiato come in tutte le mie cose, che fino all'ultimo le ricambio sempre, anche quando lavoro in teatro ci rimetto sempre mano, e abbiamo rifatto questo montaggio in 10 giorni, che è stato poi quello definitivo e che ha fatto uscire fuori il film. E quindi gli mandavo dei pezzi, cioè il nostro rapporto è stato che io ho contattato Marcus via mail, con appunto la produzione abbiamo, gliel'ho proposto, gli è piaciuto molto anche a loro, gli abbiamo mandato una mail tramite il suo agente e io gli ho mandato 5 minuti di immagini. Lui mi ha scritto: guarda, queste immagini mi hanno completamente colpito, comunque sia io farò le musiche del tuo film. Alla fine, in questi ultimi 10 giorni, lo chiamavamo e lui ci mandava, non erano conseguenziali, io gli mandavo dei pezzi, delle atmosfere, anche telefonicamente non ci eravamo mai visti, io poi non parlo inglese, quindi mi aiutava Marco e mandavamo le mail, tutto così, e lui ci mandava le mail, diceva: adesso devo andare un attimo a portare i figli a scuola, ora rifaccio subito, e ci mandava questa roba che, e noi abbiamo lasciato, lui mi ha ringraziato perché ha detto: di solito i registi ti chiedono, no, come metterla, dove metterla, tenerla quasi di sottofondo, invece tu gli hai dato, ha detto: sei stata coraggiosa perché avete dato una grande possibilità alla musica che è diventata parte integrante del film. E quindi con Marco abbiamo montato queste musiche, e lui appunto che me le ha fatti conoscere, quindi il suo orecchio era perfetto anche, ed è venuto fuori questo lavoro. Ma è stato tutto senza vedersi, solo con le mail, senza pezzi precisi. Infatti poi quando è venuto a Torino a vedere la proiezione ha detto: mi è piaciuto moltissimo, dove e come le avete messe. È un grande, è davvero un grande, è davvero un grande anche Marco, che poi mi ha inviato, è stato lui a inviarmi tutti quanti i file audio, sì, sì, che stiamo ascoltando, quindi io lo saluto, lo ringrazio tantissimo e spero di conoscerti presto, Marco, e spero che sarai con noi anche tu in trasmissione, perché secondo me sarebbe interessante parlare un po' di musica e di cinema anche con te, quindi insomma se sei all'ascolto pensaci e vienici a trovare. Quindi che dici, Fede? Si prosegue, sì? Dai, andiamo. I want to... No Twist di Alphabet, la traccia che hai scelto, la numero 5 della nostra scaletta, cara Ottavia. Sì, sì, sì, è un singolo bellissimo, sempre di Marco Sacher, alla voce, mi diceva Eleonora. Dei No Twist, i No Twist hanno firmato anche altre colonne sonore, ho trovato le mie ricerche, Eleonora, per esempio hanno suonato, insomma hanno firmato la canzone One with the Freaks che chiude il film di Paolo Sorrentino, L'amico di famiglia. Bene. Sì, e poi anche altre colonne sonore. The Consequence è stata usata da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ah sì, sì, sì, infatti anche quella l'avevo letta. Poi vabbè, anche una colonna sonora di un film abbastanza discutibile secondo me, che è Libanon, un film addirittura premiato a Venezia, che insomma era una storia di un gruppo di soldati israeliani che vanno a fare, insomma sono protagonisti della guerra in Libano, la guerra in Libano, ricordiamoci, l'invasione israeliana del 1982, 19.000 morti, pensate, se mi ricordo bene, tra i libanesi civili e altri, insomma un'invasione proprio che ricordava tutti gli effetti di invasione di Gaza proprio da parte degli israeliani, insomma un film discusso secondo me, però insomma lui ha curato anche le musiche di questo film e avrà avuto le sue ragioni. Sentiamocene un'altra e poi ci facciamo raccontare qualcos'altro di Eleonora, dai. I believe. Oh, ancora i No Twist. Sì, ancora i No Twist. Qualche altra domanda per Eleonora? Anzi, no, più che qualche altra domanda. Perché io ce l'avrei, eh? Ah, vai, allora vai. Oh, un'altra caratteristica del film, Eleonora. Il tuo sguardo verso i personaggi non è uno sguardo giudicante, molto attento, li segui e sono tutti, soprattutto chiaramente parlo dei più giovani, soprattutto nel quadro Torbella Monaca, di una carica vitale che è trascinante. Ti ringrazio di questa domanda, perché stavo pensando proprio adesso, durante il pezzo dei No Twist, alla vitalità che io cerco sempre di rendere nei lavori, perché è un'assunzione di responsabilità la vitalità, eh? E non è una cosa semplice da rendere, però è fondamentale. Di questi ragazzi volevo tirare proprio fuori, cioè il film è stato tutto motivato dalla vitalità, come forma di ribellione, come forma di contestazione anche, perché è una possibilità umana enorme. Ecco. E invece, Eleonora, così ritornando indietro, no? Invece di iniziare da questa domanda, te la faccio adesso che sono le 15:51 e siamo quasi in chiusura, anche se io vorrei sentire tantissimi altri brani e parlare con Eleonora per ore. E il titolo, no? Incapace. Il titolo è venuto perché appunto stavo parlando con uno degli aiuti registi, che voglio ricordare perché sono fondamentali in un lavoro, Francesca Polic Greco e Jonathan Deman. Stavo parlando con Jonathan e gli ho detto, no, parlando, ho detto non lo so, guarda, perché io sono un incapace, anzi sai che c'è, io il film lo chiamo così. L'ho detto così scherzando, poi ho pensato che era un titolo interessante, però incapace era una cosa chiusa, perché l'incapacità è solo una cosa, no? Le parole arrivano incapace. E poi parlando con Marco, devo dire sempre lui, Marco Tecce, gli dicevo, lui mi ha detto perché non lo fai N, cioè con il linguaggio americano, no? Che sta per no. Allora abbiamo messo la N con la stanghetta, che è una forma di slang, di linguaggio, e quindi è diventato N stanghetta capace, che sarebbe no capace, però è anche quella stanghetta, lo dico sempre, è una specie di ponticello per arrivare alla capacità, quindi dalla non capacità alla capacità, e che poi quello, tutto il motore, diciamo, del film si muove anche su questo, sulla capacità e l'incapacità a vivere, a stare nella realtà. E i personaggi si muovono su questo. La cosa che mi ha colpita lavorando, e io non lo potevo sapere, quello che sarebbe uscito fuori dalle persone, avevo questi, diciamo, chiamiamoli temi, questi punti di riferimento su cui lavorare, che erano la morte, il sesso, la famiglia, la scuola, l'istruzione, la morte. È uscito fuori proprio questo, perché poi nel film si vedono alcune cose, ma io ho 35 ore di girato, ci posso fare un altro film. Ci sono pescatori di Terracina, ragazzi di Terracina, una marea di gente che è rimasta fuori, ho dovuto per forza fare una scelta, e tutti avevano però le idee chiarissime, cioè, e forse questo è il destino di noi umani, di tutti, cioè di crearsi dei paletti, no? La morte è questa, la religione è questa, Gesù Cristo è questo, e quindi uscivano fuori in realtà tutta questa loro, è quasi filosofico il film, perché invece il mio personaggio, che interpreto io ma non sono io del tutto, è l'anima in pena. L'anima in pena, scusate, distrarre. No, ho scaricato. Mi puoi spegnere per favore? L'anima in pena, non so che sta succedendo. Te lo metti in carica? No, spegnilo, perché ho spinto una cosa sbagliata. L'anima in pena è un personaggio in conflitto con queste, diciamo, sicurezze, no, della vita. È una parte che credo che tutti noi possiamo. Si chiama avere. Proprio così. Sì, e un ragazzo, mi sono arrivati tanti commenti sul film, un ragazzo mi ha detto, sai, sono anche io quella anima in pena che si prende a botte da sola sulla spiaggia, perché anche io mi prendo a botte da solo sulla spiaggia come effetto simbolico. Infatti il mio personaggio va in giro con un letto, in pigiama, non era una scelta estetica di compiacersi, assolutamente ma no. Era una condizione, sì. Diciamo simbolica, tra virgolette, espressiva, perché del cinema mi piace proprio il rapporto con il tempo, che è la cosa che poi che lo avvicina di più alla letteratura, no? Il rapporto... è anche con quella sensazione di essere proprio, cioè, io la faccio molto mia, Eleonora. Sì, ma moltissime persone. Mi sentirmi proprio disadattata rispetto alla società. Io mi sono sentita proprio dentro, come anima in pena, in questo letto dal quale non mi riesco a alzare, o comunque non mi voglio alzare, e quando mi alzo vorrei distruggere tutto quello che vedo, perché in fondo non mi appartiene per niente. Sono una disadattata, come anima in pena. Questo personaggio lotta con il fatto di stare con gli altri, perché poi alla fine noi siamo anche gli altri, ci dobbiamo stare, però nello stesso tempo ci vuole stare nella sua posizione, che è il letto, cioè in orizzontale, diciamo, in qualche modo, e vedere il mondo da quel punto di vista. Statico o no? No, non è statico assolutamente, perché quel letto è un bruciare di quelle lenzuola, è un continuo struggersi e quindi da questo suo struggimento, che non è mai però di giudizio verso gli altri, mai, casomai di massacrare se stessi in qualche modo, no? Però poi la possibilità di questo film è quella corsa verso il mare, anche se in pigiama, anche se una specie di carcerato del sonno, della veglia, questa possibilità che la madre dice sono le 11, fatevi il bagno, libera questo personaggio. Poi ho preso l'inizio e la fine del film dal mio testo Nessuno ci guarda, che ricordo nel libretto gioiellino della Minimum Fax, Ero purissima, che potete trovare, se trova, anche una parolaccia in romano la dovevo dire, che si trova nelle librerie Minimum Fax, o comunque se volete comprarlo in rete, dove appunto Nessuno ci guarda iniziava con questa ragazzina che sogna di voler fare il bagno sulla spiaggia, e la madre gli dice non lo puoi fare perché non hai digerito, morirai, devi aspettare le 11, e lei si strugge perché lo vuole mi fare. Mi ricordo bene questo tuo spettacolo, sì, bellissimo. Sì, Nessuno ci guarda è bellissimo, spero di rifarlo presto, e quindi di riproporlo alle nuove generazioni che non mi conoscono, che non l'hanno visto. E quindi ecco questo rapporto con il tempo, dicevo, il tempo inteso come sintesi. La sintesi è fondamentale nell'espressione, perché non, nel cinema mi piace proprio questo rapporto con il tempo, perché il tempo è inteso come linguaggio, e quindi devi trovare una forma essenziale per far arrivare le cose. Io mi medesimo sempre nello spettatore, e io sono abbastanza, ecco, disadattata come spettatore, sono ottusa, sono limitata, non capisco, e quindi mi devono arrivare le cose come i bambini, mi devono arrivare. Per quello mi piace molto anche un certo tipo di cinema americano, perché è molto d'impatto il cinema americano, c'ha una cultura che non è più arcaica, è più d'impatto, e quella è una cosa che mi ha sempre ispirato molto. È vero, è vero. Stavo ascoltando la voce di Eleonora Danco, autrice del film bellissimo Incapace, autrice di bellissimi spettacoli teatrali, attrice, protagonista oggi, ospite con noi di Tracce di Cinema con me e Federico. Ci stiamo avviando alla chiusura, vedo già Luca di Attica Blues nell'altra saletta di Radio Onda Rossa. Che dici, Fede, sentiamo un'altra traccia e poi ci salutiamo? Just stavolta la Lipuna ci tenevi, Ottavia, e li abbiamo, ci siamo riusciti a metterli anche loro. Ci tenevo a tutte, soltanto che non c'è tempo. Attica Blues arriva sempre puntuale. Io ho altre 10 tracce da mettere. Oh, siamo ai saluti e a degli appuntamenti, Eleonora. Sì, degli appuntamenti a cui tengo moltissimo. Domani, già oggi è l'anteprima del Incapace Day, che domani scoccherà nella sua meraviglia, e ci sono due appuntamenti dedicati al film. Uno è su una cosa che non posso dire, ma potete vederlo sulla mia pagina del film Incapace Film, cliccate mi piace, avrete tutte le, beh, le news. Diciamo che è su una televisione, però andrà in onda. È una televisione, domani sera alle 21:15. Non facciamo pubblicità, non si può fare pubblicità alle televisioni. Guardate il cielo per capire che trasmissione è. Però è contro, ma è anche a favore di un film che, non avendo avuto una distribuzione vera e propria, potrà avere la possibilità di essere visto in tutta Italia, spero, e quindi ovunque voi siate ce lo auguriamo, vi farete un sacco di risate e anche qualche lacrima, spero, comunque. E poi domani sera, grandioso appuntamento in sintonia, in, come si dice, in contemporanea con la proiezione in TV, posso dirlo questo? Sì. Al cinema Il Chino, che vuol dire cinema in tedesco, un omaggio a Marcus Acker, che si trova al Pigneto. C'è stato un piccolo disguido con il cinema Aquila, era stato annunciato per il cinema Aquila, ma è proprio dietro l'angolo il cinema Il Chino. Sì, sì. E quindi vi aspettiamo tutti lì alle 21 con Elena Stancanelli, che è scrittrice finalista al Premio Strego, carissima strega, carissima amico, carissima amica, con Federico Raponi, che farà da presentatore. Io no. In abito da sera. No, io ho preso altri e scarpe lucide. Ho affittato lo smog. E vi aspettiamo numerosi al Chino, che ci ha dato questa salvata, devo dire. Ringrazio Nicola, Raffaele, tutti quanti, scusate se ho sbagliato il cognome, comunque Nicola è stato magico e mi hanno dato questa possibilità di realizzare l'Incapace Day, e quindi vi aspettiamo tutti domani. Nessuno riesce a dire di no a Eleonora Danco, grazie per essere stata con noi. E ricordo agli ascoltatori della radio che hanno avuto la pazienza di stare con noi quest'oretta, che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, è una radio libera dal 1977, fra un po' compiamo pure 40 anni, e per continuare a trasmettere abbiamo bisogno delle vostre sottoscrizioni, del vostro aiuto, perché questa radio è la radio di chi se la sente, quindi è vostra, di voi ascoltatori che siete all'ascolto, quindi sottoscrivete, non ha importanza quanto potete sottoscrivere, basta anche pochi euro, ma insomma la radio ne ha bisogno per continuare a trasmettere libera come ha sempre fatto dal 1977. Quindi vi ricordo le coordinate, che sono il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, oppure tutte le i mezzi, diciamo, più moderni e telematici, che potete tranquillamente trovare sul sito della radio www.ondarossa.info. Living next to rails, he can tell you.